Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Troppo forti, troppo superiori. Quando la Spagna gioca così c'è poco da fare. Io credo che l'Italia sia invece stata brava a farlo, quel poco che ha potuto tra il primo e il secondo gol. E credo anche, se ripensate a quelle due o tre smanacciate, ma proprio di un soffio, con la punta delle dita di Casillas, credo anche che contro un portiere meno bravo di questo, nelle uscite alte, nelle uscite profonde, al limite dell'area piccola e anche oltre, qualcosa di buono sarebbe potuto succedere. Ho presente due colpi di testa proprio che lui ha levato con la punta delle unghie, credo. Poi quando quelli hanno bissato, dunque il primo capolavoro era stato, sicuro, Iniesta, Fabregas, Silva, ed era il 14°. Quando hanno girato i numeri, da 14 hanno fatto 41, hanno azzeccato il secondo, Jordi Alba, Xavi, Jordi Alba, beh, a quel punto la resa è stata inevitabile. D'altra parte, se stamane la stampa inglese e francese, quindi neutrale, parla della Francia come parla della Spagna come della più bella nazionale di tutti i tempi, una ragione ci sarà. Poi si può discutere perché si dimenticano alcuni Brasili, qualche Italia, però è vero che i numeri possono dire questo. I numeri raccontano che è il terzo titolo consecutivo per la Spagna, cioè Europei 2008, Mondiali 2010, Europei 2011, è un'impresa che non aveva mai nessuno aveva mai centrato nella storia. Così come nessuno aveva mai vinto una finale con uno scarto così ampio di 4 gol tra Mondiali ed Europei. E l'ultima squadra che aveva preso 4 gol in finale era stata l'Italia nel 1970. Se aggiungiamo che prima di Vicente del Bosque solo Helmut Schön, il tedesco, aveva vinto gli Europei nel 72 e i Mondiali nel 74, Schön non è arrivato comunque al signor Vicente, perché il signor Vicente ha vinto anche una Coppa Campioni con il Real Madrid. E quindi anche lui da ieri è un uomo record, non solo la sua nazionale. È stata la prima sconfitta in competizioni ufficiali, qualificazione ed europei, per l'Italia di Prandelli dopo 10 vittorie e 5 pareggi. Certo, c'era gente che a perdere non era più abituata, perché Buffon e Chiellini per esempio non perdevano rispettivamente da 46-47 partite ufficiali, che non sono poche. E poi ci sono altre varie curiosità che un po' alla volta vedremo. Stamane c'è stata, in attesa della visita al Quirinale che verrà intorno alle 19 al rientro in Italia, c'è stata la conferenza stampa finale di Prandelli a Cracovia. Adesso ne sentiremo alcuni passi, credo non il più significativo perché non abbiamo fatto in tempo a montarlo proprio per un soffio, quello ve lo leggerò più tardi. Sentiamo il primo frammento di Prandelli. Spesso il calcio può essere un veicolo, uno strumento per cercare di cambiare. Noi, con tutta onestà, siamo in un paese vecchio, abbiamo idee vecchie, abbiamo modalità vecchie, abbiamo veramente tante cose che dovremmo avere il coraggio di dire ok, cambiamo. Noi abbiamo avuto il coraggio di venire agli europei e dire vogliamo cambiare. Chiaro che poi c'è il risultato, però non deve essere condizionante per un'idea, è così come il cambiamento. Se tutte le volte che tu pensi che si possa cambiare qualcosa e sei condizionato dal risultato, non vai avanti, fai due passi e tre passi indietro. E questo è l'aspetto che secondo me preoccupa di più il mio lavoro. Capisco lo sfogo di Prandelli. Per un mediocre come lui arrivare in finale è un successo irripetibile. Questo messaggio è firmato Gino, ma sapete da dove arriva? Arriva da Orzi Nuovi, e cioè dal paese di Prandelli. Il nemo profeta in patria, almeno su questo display, ha colpito in tempo reale. Grazie Gino, penso che il suo compaesano le sarà molto riconoscente. Il secondo frammento di Prandelli. La vittoria avrebbe fatto bene a tutti, ma probabilmente avrebbe anche magari fatto perdere l'equilibrio a tanti. Secondo me ci vuole tempo per arrivare a avere una continuità. Quello che voglio far capire è che c'è la voglia di cambiamento, c'è la voglia di rinnovo. Se noi vogliamo veramente cambiare e rinnovare, lo dobbiamo fare per lungo tempo. Non dobbiamo vivere solo attraverso un risultato. Certo, sarebbe stata una cosa straordinaria, ma forse non siamo ancora pronti. Forse non siamo ancora pronti, e nel momento che saremo pronti a vincere, saremo pronti per rivincere, saremo pronti per continuare a vincere, quindi per anni e anni avremo una continuità, altrimenti avremo sempre questi picchi e poi avremo degli anni bui e quindi avremo sempre comunque un disagio nel cercare anche di commentare quello che si sta facendo. Ma da un punto di vista tecnico, come pensa di proseguire Prandelli questa sua avventura? Nel senso che lui stesso ha fatto circolare voci, se non di abbandono, comunque almeno di riflessione, invece le ha fugate di persona ieri sera, sin dall'immediato dopo partita, però è evidente che adesso immagino, insomma, che in questa conferenza stampa un'idea di progetto concreto anche sui nomi, anche sui giocatori l'abbia fatto, insomma, l'abbia perlomeno buttata lì. Proviamo a sentire. Quando c'è un'idea c'è sicuramente la volontà di iniziare un percorso, di iniziare un progetto. Un progetto tecnico è un progetto dove tu devi cercare di programmare e di valutare quei giocatori che hanno la potenzialità di prendere il posto di Andrea. E tu hai fatto il nome, no? Io mi auguro che Andrea possa giocare ancora per 2 anni, perché ha la capacità, la potenzialità e anche la volontà, secondo me, di poterlo fare. Vicino a Andrea devi mettere un giocatore che magari fra 2 anni possa essere pronto per competizioni europee, ma se non gioca a livello europeo, come fai a farlo crescere? Se non ogni tanto trovare lo spazio per lavorare con loro. Certo, questa è un'ottima riflessione, ma Prandelli sa bene lui per primo che da settembre, anzi dal 26 agosto, da quando il campionato riparte, tornano a contare i club e le signorie e la nazionale viene messa in archivio per un altro paio d'anni, scarsi, perché ci sono i mondiali, poi, ma insomma, per altri 20-22 mesi. Cosa ne pensa, signor Garanzini? Scrive Mario: la Spagna, secondo lei, non ha fatto 4 gol fortuiti. Ha fortuiti. Mario, io lo so, sto per abbandonare i microfoni, ma non mi costringa a farlo 3/4 d'ora prima dell'orario previsto, perché se sono fortuiti i gol della Spagna di ieri sera, allora andiamo bene. Marcello dice: ma lei non pensa che Prandelli abbia sbagliato i cambi? Lo penso sì, e penso anche che non sia la prima volta, ma penso che non sia questa la ragione della sconfitta. La partita era finita già sullo 0-2 a fine primo tempo, si poteva tentare un miracolo per riaprirla. Un cambio era già stato obbligato, quello di Chiellini, e ne restavano 2. È stato giusto provare una punta. Lui ha scelto Di Natale, va benissimo Di Natale a inizio secondo tempo, però indipendentemente da come è andata poi con Thiago Motta sul fatto che si sia stirato subito, no, non esiste che al 56esimo tu ti giochi il terzo e ultimo cambio quando sei sotto 0-2. La tua unica speranza qual è? Quella di arrivare ai supplementari, e quindi rimani, se tu fai il terzo cambio non obbligato, perché Montolivo respirava ancora, mi sembra, era sano come un pesce, faceva fatica come tutti gli altri, ma faceva semplicemente fatica, perché gli altri erano più forti. Dunque dal 56 al 90 sono 34 minuti, più 30 fa 64, ti autocondanni a non avere più un cambio in 64 minuti, con una squadra abbastanza logora, insomma abbastanza stanca, e quindi con rischi di infortuni dietro l'angolo. Veramente questa è stata una mossa incomprensibile, e ripeto, da un punto di vista di cambi durante la partita non è la prima, forse la più grossa, ti toglierei il forse, ma insomma non è inedito, ecco, in questo europeo. Questo è stato, secondo me, l'unico riprovero, comunque l'unica riserva che si può avanzare sull'operato eccellente, strepitoso di Prandelli, sia dalla fase preparatoria, ma prima ancora, sia per come ha pensato questa nazionale da tutti i punti di vista, a come poi l'ha preparata e a come è riuscito a portarla in finale, non dimenticando evidentemente che nessuno alla vigilia avrebbe immaginato un'Italia in finale, nessuno degli oltre 22 milioni di persone che ieri sera 22.470.000 per uno share dell'81,66% che ieri sera hanno visto questa partita. Bene, spazio ai vostri interventi, anche se c'è ancora, prima che cominciate, c'è ancora un frammento di questo Prandelli del giorno dopo che mi sembra il più interessante, sinceramente. In cosa avrei potuto essere più bravo? Ripete in pratica la domanda che gli viene fatta. In finale avrei dovuto avere il coraggio di cambiare di più, ma sarebbe stata una mancanza di rispetto per chi ci aveva portato in finale. Lo so, questo è il senno di poi, indubbiamente, ma magari cambiavi di più, avevi gente più fresca, ma avevi gente più disarticolata, non so come dire, fermo restando che non è che sono rimasti fuori dei fenomeni, sono rimasti fuori dei giocatori che potevano essere più freschi, ma non valevano da un punto di vista tecnico, tattico e di esperienza i titolari. Quindi io credo che contro una Spagna così dei rimpianti sia bene non coltivarne. Pino ha chiamato da Brescia, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini, a lei e ai radioascoltatori. Ascolti, due interventi brevi. Il primo, è inutile star lì a dire che siamo un paese vecchio di qua e di là. Bisognerebbe invece avere il coraggio, proprio ieri sera, di cambiare quei tre o quattro che contro la Germania a fine partita erano lì bolliti, perché se no non è che ne faremo tanta di strada. E il secondo, l'ho vista ieri sera la partita lì a Orgi Nuovi, no, non sto qui a raccontarle gli epiteti che gli sono stati detti contro Sandelli, perché nessuno, andremo fuori dai binari. Nessuno però è profeta in patria, nemmeno sugli accenti, mi pare di capire, Pino. Grazie del suo intervento. Isidoro dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno. In pratica, con l'ultima parte dell'intervista della conferenza stampa di Prandelli, è già stata un'ammissione, diciamo, quello che volevo dire io, perché la storia evidentemente insegna poco. Già nel 70, dopo la semifinale con la Germania, siamo arrivati in finale col Brasile, praticamente distrutti fisicamente, però non si poteva cambiare perché il concetto era chi si è conquistato la finale se la deve giocare, no? E poi abbiamo visto che abbiamo resistito un tempo, dopodiché siamo andati a KO. Comunque non voglio buttare la croce addosso a Prandelli, che secondo me è stato quasi perfetto, a parte questo particolare qua. E poi ieri sera veramente la sfortuna è stata una componente, secondo me, non fondamentale per la sconfitta, cioè, ma comunque per le dimensioni della sconfitta. La sfortuna di aver davanti la Spagna, più che altro. Io credo che ieri sera, con le condizioni di Chiellini, l'infortunio subito, poi... quando Chiellini si è infortunato, Fabregas se l'era già incartato da qualche minuto, per quella palla dipinta dal fondo sulla testa di Silva. Io faccio un po' fatica a seguirvi sinceramente in questi ragionamenti. Dopodiché, per carità, tutto vale sempre dopo. Dopo è sempre facile aver ragione. Lo stesso Prandelli dice: avrei forse dovuto avere più coraggio di cambiare. Vabbè, però allora cambia, che te tucati. Lui coi cambi, ripeto, non se la fa molto, nemmeno in questa dichiarazione. Perché, per l'appunto, quello di Thiago Motta di ieri sera è un cambio che, se non altro avrebbe evitato lo 0-4, insomma, perché mi sembrava che gli spagnoli saggiamente si fossero abbastanza fermati nel secondo tempo, anzi hanno corso un paio di rischi all'inizio quando è entrato Di Natale, no? Quindi stavano lì belli tranquilli, non avevano più questa gran voglia di affondare. Chiaro che poi quando resti in 11 contro 10 la superiorità si afferma, con una squadra così forte si afferma automaticamente, e i titolari ci stavano anche magari, no? a non andare a cercare l'area a tutti i costi. Sono entrati due nuovi freschi e questi non gli è sembrato vero di cacciarla dentro. Matteo, Firenze, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Volevo dire che la Spagna ha avuto il grande merito di azzeccare la partita migliore dell'Europeo nella finale, cosa che non sempre accade. La nostra partita migliore è stata, noi avevamo negli occhi la semifinale contro la Germania e la Spagna vista contro il Portogallo, e quello forse ci ha un pochino... Ma non un pochino, ci ha proprio portati fuori strada tutti. Ma d'altra parte, Matteo, mi scusi, ma quale deve essere in un torneo, no? In un torneo com'è un europeo, com'è un mondiale? Esistono certamente dei valori assoluti, ma poi questi valori vengono testati partita dopo partita. Allora, come si faceva a non pensare che alla vigilia che l'Italia sarebbe giocata almeno alla pari, visto che mercoledì sera la Spagna era arrivata ai supplementari col Portogallo rischiando, e non poco, e risolvendo la partita solo all'ultimo rigore, mentre l'Italia aveva cancellato dal campo la Germania, che era una delle due favorite? È normale che fosse così alla vigilia, non crede? Sì, assolutamente. E poi, velocissimamente, volevo dirle, io sono un tifoso della Juventus, e non in quanto juventino, ma in quanto tifoso non posso essere obiettivo, e lei per me per anni è stata la bussola con cui resettare, ricalibrare alcuni valori. Non la conosco personalmente, mi dispiace, però l'abbraccio tantissimo, perché mi mancherà davvero di cuore, glielo dico, sono anche un po' emozionato, mi mancherà tantissimo. Un abbraccio. A parte con la premessa che hai fatto, però non mi complichi ulteriormente il pomeriggio, la prego, e mi rivolgo anche a chi la seguirà, perché le garantisco che dopo 12 anni e fischia, insomma, non è semplicissima per me questa giornata, quindi vi pregherei di non aggravarla. Pensate che in questa alluvione di mail che dura da giorni, stamattina ne ho trovate alcune. Dunque, vi leggo questa, è firmata Stefano Mazza, arriva da Brescia e dice: io l'ho ascoltata ovunque e su qualunque dispositivo, e dato che questa è l'ultima puntata penso di doverle una confessione. Lavoro in radiologia, si ritenga responsabile dell'installazione di un impianto radio in sala TAC, e Dio solo sa quanti pazienti oltre a me hanno dovuto sorbirsi le sue parole. Io trovo straordinaria. Ecco, allora così sì, se invece la mettiamo su un'altra lunghezza d'onda davvero mi complicate la vita. Mauro Acquiterme, buongiorno. Buongiorno, sono emozionato come la prima volta che ho chiamato, 5-6 anni fa. No, due cose velocissime, grazie di esistere, come dico, ho già sempre detto. Volevo parlare, dire una cosa sulla nazionale. Sì. Semplicemente, nel primo tempo però la nazionale non ha avuto parecchie occasioni, sembra che questo sia passato inosservato, cioè Casilla si è tolto due palloni dalla testa di Palotelli e De Rossi, sono d'accordissimo, e ha parato due cose. Sono d'accordissimo con lei, tra il primo e il secondo gol l'Italia, sia pur arrancando perché lo si vedeva, ha giocato una mezz'ora di grande coraggio e anche di buona produzione di occasioni, poi certo non il calcio lucente, scintillante, veloce e perfetto che ha giocato contro la Germania, quello che ti lascia fare un centrocampo e una difesa come quello della Spagna, però lei ha ragione. Quindi se forse effettivamente si poteva anche girare in un'altra maniera, il calcio è strano, la Spagna è più forte, però non è detto che doveva girare così, è successo veramente di tutto ieri. E la seconda cosa, se posso, velocissima, sì. Io lo so che lei non vuole, ma io sono dispiaciutissimo, lo siamo tutti, e io per protesta da domani. No, Mauro, no, la fermo, Mauro, lei non sa. Siamo tra signori, la prego. Guardi, mi scrive Angelo Ursillo, io mi sono portato le più. No, un minimo campionario. Angelo Ursillo scrive: devo necessariamente salutarla a questo punto e dirle che lei per me è un gran signore, una stretta di mano vigorosa, questa l'ho trovata stupenda, e queste cose sì, però non lei stava arrivando alle abiure, quelle ce le lasciamo ad altri, eh? Andrea Pistoia, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Innanzitutto un saluto a lei. E volevo dire che la nazionale ieri sera mi è sembrata la differenza tra le due nazionali non era quella reale. La differenza reale si è vista nella prima partita del girone tra Spagna e Italia. Ieri sera eravamo un'infermeria lunghissima, giocatori che secondo a mio modesto avviso non dovevano giocare, non dovevano entrare in campo, tipo Chiellini, e magari avrebbe potuto avere il coraggio, come lui stesso ha dichiarato, di fare dei cambiamenti un po' più appunto coraggiosi. E le dico solo questo: io ieri sera a malincuore all'annuncio dei commentatori del preriscaldamento di Thiago Motta ho spento la televisione, e io purtroppo non ho resistito e ho dovuto spegnere la televisione. Addirittura. No, io con tutto ciò che potevo, perché io vengo da vicino Firenze, e è sempre stato l'errore secondo me di Prandelli quello di puntare su 12-13 giocatori e trascurare la panchina. Lui ha portato giocatori che non avrebbe mai fatto giocare, o che l'avrebbe fatto giocare con il contagocce, mi riferisco a Giovinco, a Nocerino, sì. E quindi lui ha 12 giocatori. Si ricorda quanti le faceva giocare Berzot, che non era proprio l'ultimo della pista? No, assolutamente, assolutamente. Non era l'ultimo della pista. No, non era l'ultimo proprio della pista. Sicuramente ne faceva giocare meno di quanti ne abbia reclutati invece Prandelli in questo europeo. E io credo che alla fine sia questo il discorso da fare. Dopodiché, certo, se c'era un filo di freschezza in più ieri sera sarebbe stato certamente meglio, ma contro quella Spagna. Togliamoci dalla testa che fosse possibile batterla. Questa Italia così stenta, così un po' sulle gambe, comunque qualche difficoltà gliela ha creata nel primo tempo. Lo spagnolo Iniesta è stato insignito del premio di miglior giocatore di Euro 2012, lo ha reso noto oggi l'UEFA, e sono stati scelti i 23 migliori giocatori dell'Europeo. Poi magari li vediamo tutti insieme. I quattro italiani di questi 23 sono Buffon, Pirlo, De Rossi e Balotelli. Beato lei che guadagna tutti questi soldi per parlare di queste sciocchezze. Questo è un messaggio che arriva da Pescara. Bene, bene, mi fa molto bene oggi. Anzi, vi inviterei a mandare altri di questo genere, così non corro rischi. Come con Ivan, invece, che mi manda un immenso grazie dalla Serbia. È stato un privilegio ascoltarla. Ivan Belgrado. Ivan, lei non sarà mica quello un po' ben messo, ben strutturato, che abbiamo visto una sera arrampicato a Marassi? No, mi auguro davvero di no. Ma questo, evidentemente sto scherzando. Ma insomma, qualche messaggino prima o poi salterà fuori ancora. Adesso in attesa che torniate in onda, cioè nel senso che nel frattempo la grande rosa al centralino vi sta smaltendo, volevo dare qualche altro numero di questo europeo. Per esempio, Balotelli è stato il giocatore più falloso dell'intero europeo, perché ha commesso 17 falli, però ne ha subiti 19. In testa alla classifica dei falli subiti, pensate, non c'è un artista, c'è Arbeloa, l'esterno destro della Spagna, ha subito 20 falli, seguito a quota 19 da Pirlo e da Balotelli. Questa direi che è abbastanza curiosa, vera. 31 partite, 76 gol, con una media di 2,3 a partita, che conferma completamente i numeri delle ultime due edizioni, perché sono uno in meno, ne erano stati segnati 77 sia nel 2004 che nel 2008. Amedeo da Genova, buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Mi dica. Buongiorno, volevo dire la prima cosa che sono contento di poterle parlare dopo qualche anno che la sento sempre. Seconda cosa, è l'unica persona che mi ha fatto sentire il piacere di parlare di sport, perché non mi interessa mediamente. E questo è un suo grande merito. Per la sua signora di età. Amedeo, grazie. Che cosa le posso dire se non ringraziarla di questo riconoscimento? C'è un rapporto molto forte. Si è creato in tutti questi anni un rapporto molto forte si è creato un rapporto molto forte rispetto tra chi sta da questa parte del microfono e questa e un sacco di gente che sinceramente non credevo fosse davvero così numerosa e fosse così affezionata. È stata una strepitosa scoperta di questi giorni, al punto che il mio amico Fabio Tavelli, che probabilmente qualcuno di voi conosce, mi ha mandato un messaggio ieri dicendomi che sono davvero una persona fortunata, perché in genere tutti questi riconoscimenti e tutto questo ma come bravo, ma che cosa, avvengono dopo che non ci sei più, no, in genere. E allora magari con una simpatica, il parò diceva, ciò, tocchiamo sei confetti, no, quando c'era da fare un esorcismo, una cosa, magari una riflessione del genere ci può stare, perché è vero, no? Quando uno scompare, purtroppo, come era bravo, come era furbo, come era bello, quante cose belle, quanti bei momenti, quante cose, eccetera. So, a me è capitato, mi è capitato da vivo e insomma, a occhio e croce pure vegeto, e quindi più di così non posso. Sono veramente grato a chi ha avuto questa alzata d'ingegno, ma lo dico senza ironia. Michele Ravenna, buongiorno. Buongiorno Garantini, mi associo ai complimenti degli altri ascoltatori. Ringrazio, e anch'io le riconosco un grande equilibrio. Cerco di essere breve. Sì. Condivido molte delle osservazioni tecniche fatte. Per me bisogna anche focalizzare due risultati importanti di questi mondiali europei. Il primo è quello che Prandelli ha creato un gruppo, uno spirito di corpo, e ha lavorato soprattutto sugli uomini. Sì. Adesso il risultato con la Spagna non è venuto, perché loro, pur avendo giocato due partite stentorie con Portogallo e Croazia, si sono attrezzati benissimo anche fisicamente per la partita contro di noi. Il secondo risultato, secondo me, molto significativo è la sportività di chi è stato in campo in questi giorni. Al di là dei clamori giornalistici, io sono entusiasta, perché abituato a vedere partite di calcio dove ci sono risse tra tifosi, calciatori che si offendono o fanno di peggio, sì, sono rimasto veramente colpito da questo recupero negli europei da parte dei giocatori e anche del pubblico. Quindi vorrei che fossero focalizzate queste cose, perché si parla solo del calcio giocato in questo momento, laddove si parla di un altro tipo di calcio, quando invece è negativo. Sono stato chiaro. Ha completamente ragione, Michele. Questo è stato anche un torneo molto, ma molto ben diretto, molto ben arbitrato. Credo che Collina abbia fatto un grande lavoro, davvero, perché è lui il responsabile arbitrale dell'UEFA, è lui che ha fatto le designazioni, è lui che ha allenato la squadra degli arbitri. E mi pare che di errori davvero ce ne siano stati pochi, tant'è vero che tutti ne ricordiamo errore uno soltanto, quello del gol non visto dell'Ucraina contro l'Inghilterra, ed era un giudice di porto, tra l'altro non era nemmeno un arbitro primario, non so come dire, e poi alcune altre inesattezze e imperfezioni. Mettiamoci pure che il rigore ieri sera ha risparmiato l'Italia, perché su quel colpo di testa di Ramos la mano di Bonucci, per vicina che fosse, era nettamente staccata dal corpo, e quello rigore tutta la vita. Ma stiamo parlando di quisquiglie comunque, e rispetto a 31 partite dirette davvero, davvero bene. Da Modena, Oscar, buongiorno. Buongiorno Garanzini, buongiorno. Dica. Intanto complimenti per la sua signorilità, in bocca al lupo per il futuro, sì. E grazie di tutto quello che hai fatto in questi anni. È una piccola considerazione sulla partita di ieri sera. Io quando ho visto il secondo gol, in due passaggi praticamente la loro tre quarti ci hanno fatto gol, ci hanno infilato, sì. Insomma, mi sono alzato in piedi, ho applaudito. Lo credo Oscar. Un po' la interrompo solo un istante per dire un po' come hanno fatto alcuni gentiluomini tra i 500.000 che affollavano Circo Massimo a Roma, che hanno cominciato a tirare bottiglie e petardi contro il maxischermo, oppure come hanno fatto altri galantuomini a Milano che hanno cominciato a ringhiare verso la pattuglia spagnola che era presente in Piazza del Duomo. Erano 60-70 mila, c'era una rappresentanza con bandiere spagnole che ha dovuto essere circondata dalla polizia antisommossa per proteggerli al secondo gol dell'Italia, perché sa, la nostra cultura sportiva non è che sia una cosetta da poco, noi la coltiviamo davvero. Va al di là dell'oceano. Certo. No, guardi, ripeto, io mi sono alzato applaudito, perché fare un gol così, secondo me, cioè, poi a parte quello, anche il primo gol come è nato, va bene che Chiellini era un attimo in ritardo, ma diciamocela tutta, abbiamo fatto la nostra parte, per l'amor di Dio. Io non sono mica condannato l'Italia, Prandelli secondo me ha fatto un lavoro ottimo, al di là di qualche errore tecnico, ma purtroppo chi è che non sbaglia questo mondo? Io ho visto una bella nazionale, mi sono divertito, però di fronte a questi marziani mi sono messo a sedere e ho preso la palla e voilà. Oscar, lei ha capito non solo lo spirito con cui queste cose vanno seguite, ma ha capito anche la partita, come l'ha capita Michele, che scrive: sottolineo anche 3-4 uscite provvidenziali e determinanti di Casillas, per quanto poco appariscenti, quando il risultato era ancora in bilico. È verissimo, perché lo ricordavo prima, Casillas è stato una delle pedine determinanti non solo dell'intero europeo, ma anche della partita di ieri sera, perché se non spolvera dalla testa di una volta De Rossi, una volta Balotelli, due colpi di testa che erano praticamente a colpo sicuro, e se si va sull'1-1 poi le partite, per quanto loro fossero più forti, poi le partite cambiano, ne abbiamo viste cambiare tante di match che invece sembravano orientati a senso unico. Alberto da Biella, buongiorno. Buongiorno Granzini. Dica. Guardi, mi dispiace che l'Italia ha perso ieri sera, ci eravamo illusi, purtroppo è andata così. Però un fatto positivo mi è successo ieri sera, che dove abito io di fronte a me c'è una strada che è un via vai di macchine. Ieri sera, all'ora della partita, si poteva giocare a pallone tranquillamente. E questo mi fa ben sperare, perché vuol dire che la gente si è innamorata di questa nazionale, anche se abbiamo perso, chiaramente. Sì. Al di là di questo vinceremo un'altra volta. E soprattutto, mi scusi, sono un po' emozionato. Ma prego. Mi dispiace che lei se ne vada. Alberto, ce ne faremo una ragione presto. Dai, su, faccia bravo anche lei, che tra l'altro chiama da Biella, che io sono nato lì, sembra che ci siamo messi d'accordo, invece non mi risulta. Grazie comunque di questo suo intervento, e grazie di questa di questa mancanza che avvertirà. Poi se sentirete un pochino la mia mancanza, non è che questo mi faccia poi questa enorme dispiacere, questo è vero. Non volevo scriverle, mi scrive Marco Clementi, ed è l'inizio di, è la prima mezza riga di una quarantina che seguono. Non volevo scriverle, ma poi questa notte l'ho sognata. Capisci bene, capite bene come siamo ridotti, siamo conciati così, e io che ce posso fare. Mauro Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Niente, io volevo solamente esprimere due miei pensieri. Sì. Allora, innanzitutto il fatto stesso che Prandelli abbia detto il coraggio di cambiare. Il coraggio di cambiare mi sembra che si sia dimostrato ieri, come in tutti quanti le squadre di club, che i senatori sono intoccabili, nel senso che questi giocatori che si vedeva che erano stanchissimi e stremati da quelle partite con l'Inghilterra e con la Germania, a mio giudizio andavano sostituiti con, certo, Giovinco. La posso interrompere un istante, Mauro, per sottoporle questa riflessione. Tra la Spagna di mercoledì sera e l'Italia di giovedì sera, chi aveva giocato meglio secondo lei? Tra la Spagna di mercoledì sera col Portogallo e l'Italia che ha battuto la Germania, chi aveva lasciato l'impressione migliore secondo lei? Sicuramente la Germania. L'Italia. Perfetto. Allora, pensi che quella testa di gran quella capoccia mediocre di Del Bosque non ha cambiato la Spagna ieri sera per giocare contro l'Italia? Ma pensi un po' a questo imbecille cosa ha fatto ieri sera. Non ha tenuto conto di questo, che la Spagna era bollita contro il Portogallo, ha rifatto giocare quelli e quelli ieri sera ci hanno nascosto la palla. Sì, ma che mi dice? Io dico che secondo me l'unica, diciamo, nota negativa di quella squadra è stata proprio la partita col Portogallo, che si è, tra le altre cose, appunto, secondo me nascosta. Certo. Allora è dura, allora è più dura di quello che temevo. Va bene così. Grazie Mauro, andiamo a Milano da Giorgio, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo fare una considerazione. Io, guardando le rose dei giocatori dell'Italia e della Spagna, noto che quello che ha vinto meno a livello internazionale con i club della Spagna ha vinto due Coppe dei Campioni. E secondo me l'inesperienza a livello internazionale nel giocare partite che contano, della quasi totalità dei giocatori italiani, allenatore compreso, per me un pochino ha influito anche questo. Certo, ma questo in effetti, Giorgio, lei ha ragione, questo è un parametro che andava tenuto presente alla vigilia da tutti, me compreso, perché io ero abbastanza convinto, no, ma insomma pensavo seriamente che anch'io, che l'Italia ieri sera ce la potesse fare, e ancora intorno alla mezz'ora del primo tempo mi sembrava che il pareggio stesse maturando, o comunque che potesse maturare. Pur avendo questa perplessità, che era la prima volta che l'Italia passava in svantaggio in tutto il torneo, e quindi quella era una situazione inedita, no? Per una squadra che non aveva l'esperienza della Spagna e che la Spagna in quel momento aveva azzannato alla gola, quindi c'era questa cosa, però c'era questa speranza, non avendo tenuto conto, appunto, alla vigilia, del fatto che c'è una grande abitudine a giocare le partite chiave da parte spagnola e ce n'è molto poca al momento, poi un po' alla volta crescerà da parte italiana. Torniamo in onda con Guido, che ha chiamato dalla provincia di Bergamo. Buongiorno Garanzini. Dica. Sentivo ieri, lei ha messo sul piatto della bilancia le due squadre, quindi diceva i portieri più o meno si equivalgono, le difese pure, gli attacchi dovranno essere più forti noi, quindi almeno sulla carta siamo più forti noi. Davanti sì, io ripeto, non ritengo nulla, partivo da Germania e Portogallo, cioè dalle due semifinali, e ho addirittura detto la Spagna l'attacco non ce l'ha, perché rinuncia a schierare. Non voglio insegnarle il mestiere, e poi soprattutto parlo col senno di poi, quindi sì. La domanda veramente, guardi, è proprio in tutta umiltà. Non pensa che questa analisi non si sia tenuto conto del fattore stanchezza? Cioè, l'analisi magari poteva essere giusta se avessimo giocato, faccio per dire, domani. Chiedo, in tutta umiltà, ripeto. No, io il fattore stanchezza non l'ho proprio considerato, perché l'Italia aveva un giorno in meno di riposo, ma aveva dimostrato di non aver patito contro la Germania addirittura due giorni in meno di riposo, quindi quel fattore non l'ho calcolato. La Spagna contro il Portogallo aveva giocato i supplementari, per cui viste alla vigilia le squadre partivano ad armi pari. Non solo, ma mentre la Spagna era arrivata in finale, che era l'atto dovuto, no, della nazionale spagnola nei confronti di questa manifestazione, l'Italia era arrivata in finale, non dico da miracolata, ma insomma comunque dopo essere stata la grande sorpresa dell'europeo, e quindi c'era anche un fattore psicologico di cui tenere conto. No, da quel punto di vista lì no, io penso che non fosse un parametro da tenere particolarmente presente, né quello della stanchezza e nemmeno quello psicologico. Penso che l'ascoltatore di prima, dicendo che questi spagnoli hanno, sia a livello di club che a livello di nazionale, hanno l'abitudine mentale a dare il massimo nell'occasione massima, abbia fatto una certa misura di differenza, credo. Stefano Vicenza, buongiorno. Buongiorno a lei, Garanzini. Dica. Vedendo la partita di ieri sera mi veniva una considerazione. Gli spagnoli, dove in Spagna il calcio a 5 è professionismo, hanno un gioco veramente molto simile. Passaggi mai più lunghi di 10 metri. Immediatamente quando le palle ce le hanno loro, il portatore di palle ha tre soluzioni possibili da dare ai suoi compagni. Vero. E il portatore di palla avversario non più di due secondi ha immediatamente due persone pressing addosso. Secondo me ieri sera l'Italia non ha giocato male, gli spagnoli hanno applicato questa cosa che è asfissiante, un gioco asfissiante, veramente, veramente bravi, complimenti a loro. E complimenti anche a lei per sti anni. Grazie, grazie. Mi mancherà i suoi racconti di Amatorio. Grazie Stefano, mancheranno anche le date di Nicola Filippone, perché il suo sembra ieri era un appuntamento particolarmente gradito a voi ascoltatori, e per abituarci a un futuro senza Nicola, oggi non se l'è sentita di preparare il suo 2 luglio personalissimo, e quindi niente, per oggi e per domani pure vediamo di farne a meno. Grazie comunque a Nicola Filippone per la sua collaborazione in tutti questi anni, così come grazie a chi, ma dovrei dirne troppi, mi viene in mente il primo direttore di Radio 24, mi viene in mente Elia Zamboni, mi viene in mente Fabio Tavelli, mi viene in mente Flavio Suardi, che è stato al mio fianco per tantissimi anni, poi rimpiazzato da Franco Piantanida. Sergio, provincia di Macerata, buongiorno. Buongiorno, io volevo dire semplicemente che magari abbiamo visto tante cose, forse per Prandelli, forse è entrato quello acciaccato, è entrato quello più stanco, però secondo me la Spagna ha vinto perché è più forte e basta. E secondo me non ci sono scuse, perché l'Italia aveva fatto solamente un miracolo ad arrivare lì, perché tutto sommato il centrocampo sì, c'aveva un ottimo centrocampo rispetto a quelle altre volte, però tutto sommato abbiamo vissuto sulle giocate dei singoli, come vuole dei Balotelli, e secondo me di fondo in Italia non c'è la cultura del gioco. No, no, ma lei, Sergio, ha fatto un editoriale e io le garantisco che lo condivido in pieno, perché così è stato, perché e così è andata. Se posso dire una cosa, se non ci fosse la Spagna, vedendo tutte le squadre, no? Se non ci fosse stata la Spagna, avrebbe vinto la più fortunata, secondo me, e non la più forte, perché tutte quelle sono allo stesso livello di mediocrità, secondo me. E poi questi, secondo me, finché non fanno la regola che si gioca con due palloni, penso che è difficile che gli altri ci sarà difficile vincere. Levarglielo. Vediamo in Brasile, vediamo tra 2 anni in Brasile, perché la Spagna già da oggi ha stabilito un record assoluto, perché nessuno ha mai vinto 3 manifestazioni consecutive di questa portata. Loro proveranno a fare il quarto, non ci stanno pensando, credo, già da stamattina, e hanno anagraficamente hanno un problema solo, che sono i 31 anni di Xavi, ma insomma a 33 ha dimostrato Pirlo in questi europei che si può arrivare tranquillamente ormai. Tocca, credo, ad Alberto della provincia di Monza. Sì, signor Garanzini, buongiorno. Buongiorno a lei. Spero di non essere l'ultimo delle telefonate, se no mi si stringe il cuore ancora di più. Niente, mi unisco prima di tutto al coro di grazie, grazie, grazie. Bene. Abbiamo 2 amici comuni, che Maurizio Rosetti e Bruno Pizzun, mi hanno detto talmente tante cose belle di lei che in tanti anni le ho potute constatare e confermare. Adesso bando all'emozione e bando ai complimenti, grazie ancora di averci insegnato a capire il calcio. Dai Alberto, vero, lo conoscevate già prima. Modesto, lei ha scritto un libro. Va bene, grazie. Grazie Alberto, grazie davvero. Pensi che Michele Simonotti, che è un ascoltatore, leggo un messaggio: lei è il nostro Pirlo del calcio parlato e non faccia finta di confondere la vocale finale, che mi sembra molto carina come messaggio. Grazie Michele. Stefano ha chiamato dalla provincia di Mantova, buongiorno. Buongiorno, mi associo anch'io ai complimenti degli altri ascoltatori. Sì. Io ho fatto una riflessione di questo tipo, anch'io ho pensato all'inizio, molti giocatori sono stanchi, poi mi sono detto, se avessimo fatto tutti i cambi che ci siamo detti in questa trasmissione, probabilmente avremmo perso lo stesso e oggi cosa diremmo di Prandelli? Che aveva snaturato la squadra. Che aveva snaturato, che è stato un patto. Ma non c'è dubbio, ma non c'è dubbio alcuno su questo. Poi c'è, insomma, c'è sempre un modo delle cose, no? Come dicevano i latini, e quindi magari, non so, quel paio di pedine più fresche, trovare, ma chi lo... Cioè, parliamo di ieri, chi lo toglie? Cerino era quello che poteva entrare. Chi lo toglie Pirlo? Chi lo toglie Marchisio? Chi lo toglie De Rossi? Chi è che rinuncia a questi giocatori, o Bonucci, o forse Chiellini? Sì, forse Chiellini con il senno di poi, perché Chiellini è un rientrante. I rientranti in genere, dicono i preparatori e dicono gli allenatori, soprattutto i grandi, che la prima partita non è quella difficile, quella difficile è la seconda. Quindi forse, sì, forse si poteva giocare con Balzaretti lì, ma Balzaretti lo chiudeva Fabregas? Bah, io ho qualche dubbio. Toni ha chiamato da Milano, buongiorno. Egregio Garanzini, che piacere. Grazie. Volevo dire solo questo, ma chi si aspettava di un secondo posto? Dobbiamo essere felicissimi. Bravo. Personalmente io ho vinto il mio europeo, io lavoro con tanti tedeschi, quindi lei può immaginare. Certo. Quindi io ho vinto già il mio europeo. Nel salutarle e augurarle buona vita per tutto, Garanzini, noi abbiamo tra amici un punto di domanda. Sappiamo che la sua fede calcistica è a Milano, lei non so se me lo potrà dire, magari non me lo dirà. Lei è nero azzurro o rosso nero? Nessuna delle due, sono le due squadre, sono le seconde squadre che ho più in antipatia dopo la Juventus, quindi vede che è leggermente fuori strada. Storiche, queste cose, non contingenti, ma credo superate dal mestiere ormai da tanti anni. Dunque, questa che oggi si chiude è stata indubbiamente un'avventura straordinaria, testimoniata proprio anche dalla quantità sbalorditiva di lettere, messaggi e arte varie. Io chiamo arte varia Facebook, Twitter, queste diavolerie che non capisco e che solo Franco Piantanida, e a cui solo Franco Piantanida riesce ad iniziarmi, ma solo per questi giorni. E quindi tutto questo significa che in questi 12, quasi 13 anni, insomma, siamo stati davvero bene insieme. E non so se riuscirò a rispondere a tutti, perché il pacco che c'è su quella scrivania è davvero impressionante. Io però con calma vi garantisco che ci proverò. Non c'è più tempo per un altro ascoltatore, c'è tempo soltanto per dirvi che la stagione del calcio riparte il 25-26 agosto. Voi a partire da quella data mi troverete, tanto per cominciare, sul sito del Sole 24 Ore, che è stato il primo a offrirmi asilo non politico ma calcistico. Io ringrazio ancora tutti per il vostro affetto, ringrazio Roberto Scaltritti in regia, Franco Piantanide in redazione. Buon pomeriggio a tutti.